impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Giuseppe Viazzo, il riso parboiled che viene da Vercelli. Una tradizione lunga 4 generazioni. Di Adriano Palazzolo. La storia che vi raccontiamo oggi è quella della Riso Viazzo SRL, un'azienda trasformatrice di riso. Ogni anno dai suoi stabilimenti passano circa 65.000 tonnellate di chicchi grezzi, da cui vengono ricavate oltre 40.000 tonnellate di riso parboiled. Come ci racconta Giuseppe Viazzo, amministratore delegato dell'azienda, tutto nasce da una piccola riseria in provincia di Vercelli, fondata agli inizi del Novecento dal bisnonno Mario Viazzo, con un'attività passata di padre in figlio fino alla 4ª generazione. L'azienda Viazzo nasce circa 4 generazioni fa, quindi all'inizio del Novecento, da questo punto da mio bisnonno, che io tra l'altro non ho neanche conosciuto, con una piccola riseria di riso bianco in provincia di Vercelli. Da lì c'è stato lo sviluppo da mio bisnonno a mio nonno, che si chiamava come me Giuseppe, che all'inizio degli anni 40-50 ha aperto uno stabilimento sempre in provincia di Vercelli, che è poi stato proseguito come attività da mio padre Mario nel 1970, più o meno all'inizio degli anni 70, quando sono poi nato io. Fino agli anni 80 la famiglia Viazzo mantiene la propria attività sulla lavorazione del riso bianco. La svolta con il passaggio alla tecnica della parboilizzazione avviene con l'ultima generazione. Tutta l'attività della, diciamo, familiare prima di quest'ultima generazione, cioè la nostra, che è la Riso Viazzo, era dedicata al riso bianco tradizionale. Mentre invece l'evoluzione da riso bianco a riso parboiled è avvenuta con l'acquisizione di un impianto a Crova Vercellese nel 1985-86. La svolta è stata epocale, nel senso che si è passati, anticipando i tempi, da produzione di riso bianco a produzione di riso parboiled. Oggi noi, nella nostra attività, la Riso Viazzo SRL, è dedicata in esclusiva alla produzione di riso parboiled. Puntare sul riso parboiled, anticipando nella domanda da parte dei consumatori, è una scelta che permette all'azienda di crescere, fino a quadruplicare la produzione di riso lavorato ogni anno negli stabilimenti di Crova Vercellese. Si è partiti con un impianto di riso parboiled a Crova di capacità un autoclave, quindi un unico contenitore che parboilizza il riso, nel 1988. Nel 1992 è stato raddoppiato l'impianto, nel 1997-98 è stato triplicato, fino ad arrivare nel 2000 circa, dove è stato quadruplicato rispetto all'inizio. Dal 2000 ad oggi la capacità è rimasta invariata. In 12 anni la produzione è stata quadruplicata rispetto all'inizio. La crescita porta alla Riso Viazzo SRL ad aumentare anche il numero di dipendenti per far fronte alle esigenze produttive e alle necessità sollevate dalla commercializzazione. Oggi siamo circa 40 dipendenti, suddivisi ovviamente in parte produttiva, parte commerciale e parte amministrativa. All'inizio, fine anni 80, erano necessarie soltanto 4 persone in turno, proprio perché la capacità produttiva era ridotta. Oggi noi abbiamo un personale su 3 turni, quindi lavoriamo 24 ore su 24, quindi ci sono diverse squadre di turnisti, di operai che si ruotano nella produzione, e sono circa 15 o 16 persone. Ovviamente non è che con la produzione del 1990 e la produzione ad oggi si è quadruplicato il personale, proprio perché il reparto di parboilizzazione è molto automatizzato, quindi oggi, evolvendoci a livello tecnico produttivo, una persona per turno può far girare un impianto di produzione di 200 tonnellate al giorno autonomamente, da solo. Oggi il fatturato si divide per il 70% all'estero, prevalentemente paesi dell'Unione Europea, e per il 30% in Italia, e tocca i 26 milioni di euro. Un risultato in calo rispetto ad anni precedenti e basso rispetto ai volumi produttivi dell'azienda. La crescita, diciamo, è stata continua fino al 2012 più o meno. E lì siamo arrivati quasi ai 30 milioni di euro. Fino a qualche anno fa c'erano forti incentivi per quegli impianti di biogas per produrre energia con il mais. Quindi alcuni produttori, sull'onda un po' dell'entusiasmo, hanno deciso di cambiare produzione da riso a mais, andando a ridurre un po' le superfici. Questo, assieme al discorso delle importazioni, assieme al discorso del dollaro, quando è stato a 1,40 non agevolava sicuramente l'importazione, lo scambio in dollari. Questo ha fatto sì che dall'anno 2013, dalla campagna risicola 2013, c'è stato per noi e per anche molti nostri colleghi una riduzione di fatturato e di produzione. Siamo arrivati a un 25% in meno rispetto agli anni precedenti. Noi abbiamo fatturato all'incirca di tra i 25 e i 27 milioni di euro. Con i volumi che facciamo, noi facciamo circa 55-60 mila tonnellate di prodotto grezzo all'anno. È un fatturato basso. Il presente rappresenta il momento di maggiore difficoltà per l'azienda a causa di problemi di produzione legati al contesto europeo e internazionale. Il riso prodotto nella comunità europea non è più sufficiente all'industria europea, quindi per forza, in un modo o nell'altro, il prodotto va importato, perché altrimenti l'industria non riesce più a stare dietro alle richieste del mercato. Il problema è che oggi c'è una tale disparità di prezzi tra il prodotto comunitario e il prodotto di importazione, per cui oggi c'è il rischio che il prodotto comunitario, che prima era deficitario, oggi sia in surplus, proprio perché ci sono dei clienti al nord Europa che hanno più convenienza a importare il prodotto dalla Cambogia piuttosto che da altri paesi, alcuni a dazio zero, questo è un ulteriore smacco l'agricoltura italiana, piuttosto che comprare un prodotto di qualità superiore, ovviamente, però con la crisi che sta attraversando il nostro paese e non solo, mentre prima il cliente puntava probabilmente di più sulla qualità rispetto al prezzo, oggi si è completamente rovesciato. Il rapporto qualità-prezzo oggi viene fatta molto più attenzione al discorso del prezzo. Per far fronte alle criticità del mercato, Giuseppe Viazzo ha puntato su investimenti e innovazione nella sua azienda già nel 2008, creando una nuova linea di prodotti, il riso di pasta, che porta con sé una grande ambizione. Abbiamo iniziato quasi per scherzo a dire: proviamo a fare un prodotto con la materia prima che abbiamo noi, che conosciamo molto bene, che è il riso parboiled, che possa andare incontro alle esigenze del mercato. E abbiamo iniziato piano piano con delle piccole sperimentazioni in laboratori esterni, sempre più grandi, e siamo arrivati a questo punto, dopo 4 anni, ad avere riso di pasta, prodotto che attualmente sul mercato non esiste, perché è la prima, come c'è scritto qui, è la prima pasta di riso che non scuoce. Utilizzando il riso parboiled, che come prima caratteristica fondamentale riconosciuta da tutti al fatto che non scuoce, quindi tiene molto la cottura, noi siamo riusciti a trasferire le proprietà, quindi le organolettiche del riso parboiled alla pasta. È un'ulteriore responsabilità dal punto di vista familiare, perché ci sono già tanti problemi legati al riso, non contenti siamo andati a prenderci dei problemi anche legati alla pasta. Scherzi a parte, è un settore molto interessante, perché vediamo che è un settore in continuo aumento. Parliamo di una pasta ovviamente naturalmente senza glutine, 100% riso parboiled, senza nessun altro colorante, a differenza di molte paste di riso in commercio che hanno l'aggiunta di mais, hanno l'aggiunta di quinoa, ma questo non è per denigrare altri prodotti. Questo è un prodotto unico nel suo genere e la nostra presunzione è di farlo diventare non dico integralmente, ma in parte un sostituto della pasta tradizionale, perché chi è abituato a mangiare pasta con il glutine tutti i giorni e assaggia questa trova una leggerezza, un discorso di digeribilità nettamente superiore rispetto alla pasta tradizionale.